Ed eccoci con Massimo Popolizio per parlare con lui dello spettacolo Copenaghen al Teatro Argentina da stasera martedì 24 ottobre fino al 12 di novembre. Massimo, ben ritrovato su queste frequenze. Grazie a voi, ben ritrovato te, che sei l'unico che continua a fare queste trasmissioni da panda, sono molto contento. Teatro. Allora Massimo, uno spettacolo che ha una lunga storia, la prima curiosità è se tu ci sei entrato da subito o no? Sì, è stato un progetto con Umberto, condiviso, ahimè, ti posso dire quasi 17 anni fa, sì, con il CSS sì. Di Udine, e sì, l'abbiamo fatto per tanto tempo in questi anni, l'ultima volta che l'abbiamo fatto era 9 anni fa, ecco. Sì, sì. Quindi insomma è stato, siamo come il Copenaghen la vendetta, siamo tornati adesso dopo tanti anni per un preciso motivo, perché lo spettacolo era stato richiesto, ce lo richiedevano e quindi probabilmente era giusto rifarlo. E credo 9 anni fa di averlo anche visto, se non sbaglio all'Eliseo era. Sì, perché a Roma è stato, adesso voglio dire, è una grande scommessa tornare a Roma, all'Argentina, perché in realtà noi siamo stati all'Eliseo 2 volte e una volta siamo stati anche all'India, la prima volta che l'abbiamo fatto intorno al 2000, per cui sì, siamo stati tante volte in questa città, ma come sai il pubblico cambia, molto pubblico non l'ha visto, molto pubblico non se lo ricorda, insomma ci sono molti giovani, insomma speriamo anche. Io me lo rivedo, per cui ecco. Senti Massimo, per chi ci ascolta, come lo racconteresti in breve? Oh guarda, Copenaghen, questo è un titolo, cerco di essere molto breve e conciso. A Copenaghen nel 1941 ci fu un incontro molto importante tra due premi Nobel, il fisico Niels Bohr, che è Umberto Orsini, e Werner Heisenberg, che sono io. Heisenberg era un tedesco, Niels Bohr era un danese. Perché quell'incontro? Perché si presupponeva nel 41 che i tedeschi avessero la possibilità di arrivare abbastanza vicino alla bomba atomica. Quindi Heisenberg viaggia dalla sua, diciamo, dal suo nucleo di scuola nucleare tedesca, chiede dei consigli a Bohr, cosa si siano detti in quel frangente è il motivo della pièce. Sì. Sembra stupido, ma non lo è, perché bastava pochissimo perché i tedeschi avessero la bomba atomica, e se avessero avuto la bomba atomica probabilmente io e te non saremmo qui a parlare del nostro futuro, sì. Quindi dietro questo dramma storico e scientifico c'è anche tutto, diciamo, si analizzano rapporti personali, padre e figlio, rapporti storici, rapporti scientifici, ma soprattutto la cosa bella di questa pièce è che la scienza, quindi il furore scientifico, il furore della scoperta, il famoso calcolo, è trattato come una cosa umana, cioè la matematica è una cosa umana che incide nelle nostre vite, e la visione dell'indeterminazione, che è poi la grande scoperta di Heisenberg, una delle grandi scoperte di questo, della fisica quantistica di questo secolo, è che il principio è che chi guarda una cosa produce un'energia che cambia la cosa guardata. Quindi i punti di vista diversi, e questa è la cosa molto forte di questo testo, i vari punti di vista modificano la cosa guardata, che è insomma il principio di indeterminazione, è anche un principio abbastanza filosofico in questo senso, sì. E su questo principio si basa tutto il meccanismo della commedia. Oh, immagino siano stati proprio questi aspetti quelli che ti hanno folgorato nel testo teatrale. Sì, perché il testo teatrale è un testo, cioè non si parla di corna, non si parlano di problemi di coppia, sì. Non ci sono problemi generazionali, non ci sono problemi sociali, quindi è un testo abbastanza nuovo in questo senso, ebbe una grande fortuna quando uscì. Il nostro adattamento è un adattamento molto più corto di quello inglese, perché come sappiamo tutti il teatro inglese si può permettere 3 ore di parole senza che nessuno si muova in sala. Noi l'abbiamo ridotto, insomma sono 1 ora e 45 di spettacolo più 1/4 d'ora di intervallo, quindi c'è anche l'intervallo in mezzo, e quindi il nostro adattamento è più corto, è più conciso, ma soprattutto, come dicevi tu, mi ha folgorato il fatto che il furore scientifico Insomma, immaginiamo queste due persone che camminavano in una settimana per 150 chilometri sulle montagne e si sfidavano a risolvere equazioni senza computer, o giocavano a scacchi senza la scacchiera, o giocavano a poker senza le carte. Cioè, insomma, menti abbastanza diciamo straordinarie, che avevano, diciamo, come fine della loro vita risolvere, diciamo, i problemi, la ricerca, i nuovi orizzonti che si potevano aprire. Senti, oltre ad un restringimento, qual è stato il vostro lavoro nella trasposizione anche rispetto agli altri modelli inglesi? Ad esempio, noi parliamo di formule scientifiche, sì, dove certamente, ad esempio, Umberto c'ha tutto un monologo su cosa succede nella fissione. È chiaro che non siamo quark, cioè non abbiamo il compito, diciamo, di trasmettere il verbo scientifico a chi sta seduto, sì, anche perché non si potrebbe spiegare la fissione, ma nel modo in cui lo fa, ti assicuro, e nel modo in cui io faccio io altre formule, non è che si capisca la fissione, ma si capisce perché diciamo stiamo spiegando la fissione, che è la cosa più importante. Cioè, praticamente avvalorare, dare un valore veramente umano, scaldare le famose formule, scaldare la famosa scienza, che non è una materia fredda, tutt'altro, è una materia organica, una materia che viene da dentro, una materia che viene dal cuore, dall'anima. Cioè, la scoperta scientifica e il calcolo, insomma, come italiani in un certo senso, a differenza dagli inglesi, lo abbiamo più, diciamo, sì, più scaldato, più temperato, siamo più in conflitto oppure empatico. Ecco, diciamo, la formula di mano in mano può diventare cattiva, buonissima, empatica. È più emozionata, insomma. Esattamente. Senti, Massimo, in questo periodo, allora, c'è questo vostro lavoro che va in scena da oggi, e poi di tanto in tanto vedo che fai delle letture, delle interpretazioni musicate. E cos'altro c'è in questo periodo per vedere? Il 30, sì, per tanto non farmi mancare niente, il 30 di ottobre sono al Piccolo Eliseo con la piccola banda Icona, con cui ho lavorato tante volte. Facciamo, ci hanno chiesto appunto Stefano Scioffi, che organizza questo festival da tanto tempo con le sue risorse, è veramente un uomo di una grandissima, anche lì come Heisenberg, ostinazione nel risolvere i problemi burocratici di questa città riguardo alla cultura. E qui finiamo, facciamo appunto la caduta di Troia dall'Eneide, il libro dell'Eneide che riguarda la caduta di Troia, con proprio in versi, ed è una serata, insomma, anche quella di lettura, che, come sai, che tu mi vedi molto spesso, non fa, le mie letture sono anche interpretazioni, ecco, certo. Quindi cioè, non leggiamo solo, ma insomma è una serata abbastanza carina, sì, spero, sì, immagino. Sì. Allora, Massimo, ripetiamo, Copenaghen al Teatro Argentina da oggi 24, martedì 24 ottobre al 12 novembre, c'è parecchie occasioni per andarlo a vedere. Un abbraccio, un in bocca al lupo, ci vediamo proprio stasera. Grazie, ti abbraccio. A dopo, grazie a tutti, ciao. Grazie a tutti, ciao ciao.